Ciao Essu, benvenuto e ti ringraziamo per essere qui nei nostri studi. Grazie. E abbiamo qui, avvicina un po' di più il microfono per favore, così funziona tutto alla perfezione. Abbiamo qui Elso e Giovanni, che è il patron dell'etichetta Phonofabric, che è l'etichetta che ha stampato questo disco, che è qui di Bologna, quindi è tutta una cosa che viene da qua, insomma. E quindi questo disco si chiama Yuk Yuk, dico giusto Elso? Yuk Yuk. Yuk Yuk vuol dire sentimento. Ok, quindi è il tuo primo disco, ci hai detto? Sì, dopo il mio primo disco, sì. Che Elso, dopo aver suonato in innumerevoli band nella sua carriera musicale, ha deciso di entrare e inoltrarsi nella carriera solistica, e per cui ha fatto questo primo disco, appunto. E come ti consideri come musicista riguardo al tuo genere? Questo può essere un disco, diciamo, di musica etnica che rappresenta un po' le tue radici, che tu sei del Senegal. Sono del Senegal, sì. Quindi questa... Prego. Perché io avevo l'idea di mescolare la musica, sì, africana con musica occidentale, praticamente, perché il CD, se lo ascolti bene, c'è un po' di influenza jazz, sì, parte l'afro, tutto l'ho realizzato tutto io praticamente da solo, il CD, il disco, sì, fatto arrangiamenti, tutto quanto, sono la batteria nei live e canto durante, mentre suono, canto praticamente. Quindi proprio a tutto tondo, insomma. A tutto tondo, dalla A alla Z. Dalla A alla Z, dai. Quindi questo è proprio il tuo disco solista, diciamo, nel senso più completo. Sì. Che hai fatto molte cose. Sì, nel passato ho fatto molte cose, sì. E dopo un po' di esperienza con vari gruppi musicali, che non vorrei nominare perché ce ne sono tantissimi. Ce ne sono troppi. Dopo, alla fine, avevo deciso di fare qualcosa di mio. Che il CD l'ho chiamato sentimento perché sono tutte cose che sento, perché quando si parla di musica e non è secondo me quella che qualcuno ha già realizzato, no? Sì. Quella che crei tu è quello che si chiama musica alla fine, come nel mio punto di vista praticamente. Sì, quello che tu crei dal tuo, che rispecchia il tuo sentimento, la tua creatività, il tuo gusto, come ogni musica che si rispetti e che sia riconoscibile, non una semplice copia di quello che si sente in radio. Si è già sentito. Sì. Esatto, per questo infatti questo disco ci è piaciuto, perché ha delle particolarità molto sue e... Insomma, non si avvicina a quello che si sente di solito, quindi l'originalità l'abbiamo apprezzata. E direi che tu, allora, hai qualche data qui a Bologna prossimamente o qua in zona in cui porterai questo tuo disco? Il 18 di giugno, sì? Inshallah, vuol dire se Dio vuole. Ok. Inshallah. Sono al Bravo Caffè praticamente alle ore 22. Ok. Sarò accompagnato da dei musicisti professionisti bravissimi che vi nomino qualcuno. Ok. C'è Andrea Zucchi al sax baritono. Sì. C'è Tim Trevor al sax alto. Poi abbiamo Yateke Mamadou al basso. Ok. Chiamato Lefty. Sì, lui lo conosciamo da un bel po', come tanti. Ok. Poi c'è Max Tramontano alla chitarra. Sì. Mi sto approfittando per salutarli, sì, tutti, sì, quanti, esatto, comunque. Spero che mi stanno sentendo. Poi c'è Manuel Franco alle percussioni. Che praticamente farà la prima data con Elzo, praticamente. Ok. Quindi, insomma, un sacco di persone. Cosa, siete in 6, giusto? In 6, sì. Quindi starete un po' stretti al Bravo Caffè, immagino. Un po' però... stretto, sì. Ho dovuto non chiamare il tastierista per anche questione di spazio, tutto quanto. Vabbè. Perché di solito siamo in 7, anche di più, dipende da dove si va a suonare. Comunque, per l'esigenza dei locali. Esatto. L'importante è che ci sia spazio per la musica e che questo non manchi mai. Sicuramente al Bravo Caffè ce n'è tanto. Infatti, per cui infatti. Martedì, che è questo martedì prossimo, giusto? Prossimo, martedì 18 al Bravo Caffè alle ore 22. Sì. Elso con tutta la band che ci porterà un bel po' della sua musica, per cui adesso possiamo andarci a sentire la terza traccia di questo tuo primo album, okay, che è uscito l'anno scorso, se non sbaglio, verso la fine. A maggio dell'anno scorso. Quindi è nuovo. Sì. E questo tuo album dove lo possiamo reperire? Dove hai, sei su dei portali? Su tutto le cose streaming. Ok, quindi trovi dappertutto praticamente su Bandcamp, su iTunes, Spotify, Bandcamp, ok, Spotify, sì, quindi insomma trovo un po' dappertutto comunque. Se ti sei messo un po' dappertutto sulla piazza, sulla come piazza, bisogna fare, sì, certo. Anche il CD fisico esiste, anche chi lo vuole. Ah beh, certo. Basta contattare gli ascoltatori, pagina. Lo potranno trovare alla tua serata, immagino, giusto? Sì, sì, sì, ci sarà dischi disponibili, sì. Certo. Allora, ci andiamo a sentire la terza traccia di questo album, che magari tu la puoi pronunciare più correttamente di me, giusto? Sì, che ok. Suno Societe Yangatuna. Yangatuna, sì. L'ho detto giusto? Giusto, sì. Ok, quindi è andata bene. Quindi andiamo a sentirci la terza traccia di Yok Yok, di Elso. Ok, ok. E questa era la terza traccia di Yok Yok, disco di Elso, che ci siamo appena sentiti. E Elso, che qual è il significato del nome di questa terza traccia? Suno Societe Yangatuna. Suno Societe Yangatuna praticamente parla un po'... la significazione, il significato è la nostra società si è sollevata, no? Tipo, dobbiamo avere coraggio per conquistare la nostra indipendenza, parla più o meno di quello, e lavorare per il nostro paese praticamente. Una canzone riscatto. Ma infatti i temi di questo disco, quali sono i temi principali di questo disco? Sono sempre legati alla tua terra, appunto, come sì, hai detto, sì, sempre legati alla mia terra, alla ribellione, un po' collegato anche all'indipendenza, così, no? Parla della che la società, ogni società in Gottuna vuol dire la società si è sollevata, no? E dobbiamo avere coraggio per conquistare la nostra indipendenza, quella vera, perché si parla di indipendenza, però adesso come adesso direi che non ce l'abbiamo al 100%, perché è tutto guidato dall'Occidente ancora. No, esatto, è un tema molto caro in molti paesi africani, quello dell'indipendenza, del sì, sì, sì. Trovare infatti, le proprie questa radici. È una canzone molto cantata, la musica tutto fatta tutto diversamente, fatta da me. Dice anche che dobbiamo lavorare un po' per il nostro paese praticamente, darci da fare. Capito? Darci da fare, sì, la canzone è un po' patriottica. Sì, insomma, un disco anche con delle tematiche importanti, ecco, non è solo musicale, ma anche vuole dare anche un messaggio, insomma. Sì, sì, un messaggio, sì. Come diciamo spesso o sempre dovrebbe esserci in ogni disco, e soprattutto in tanti dischi di musica etnica come questo o di world music. E infatti, a proposito di world music, abbiamo anche qui Giovanni, che è il patron dell'etichetta Fonofabric, che è l'etichetta che ha stampato questo disco e che ha una storia già riguardo della musica, della world music. Cosa ci dici, Giovanni? Intanto benvenuto e grazie di essere qui nei nostri studi in via Zanardi. Ok, ciao a tutti, grazie per l'invito. Ricordami un attimo la domanda. La Fonofabric, cioè raccontaci un po' la Fonofabric, quando come nasce e qual è la sua mission a livello di musicale, che cosa porta come etichetta? Allora, che la label è neonata, ha semplicemente solo 4 anni, quindi è veramente un bebè. Abbiamo facciamo circa 2-3 pubblicazioni all'anno, naturalmente a causa delle risorse limitate, e si occupa fondamentalmente di world music, quindi abbiamo un'attenzione particolare ai generi contaminati. Ok, quindi non solo etno, ma soprattutto devono essere contaminati, come per esempio il disco di Elso, che fondamentalmente è una commistione di afrobeat, musica africana e jazz, quindi una connotazione sia occidentale che africana. Questo è quanto. Che invece con quali altri artisti avete collaborato e con chi avete prodotto anche in questi anni, con sonorità, allora, che spaziano? Abbiamo anche dato molta attenzione alla Nizza Coastal, abbiamo coprodotto e pubblicato 2 album, il primo che era Revolution e il secondo che è Roots, 2 dischi anche abbastanza diversi, perché molto il primo è abbastanza molto molto brasiliano, mentre il secondo c'è molta più contaminazione di jazz, c'è anche un po' più di ricerca. quindi già un po' un ascolto un po' più, richiede un ascolto un po' più impegnativo rispetto al primo. Non è un disco, ecco, particolarmente radiofonico, anche perché la Nessa Costa è un personaggio che funziona molto bene dal vivo quando ha i suoi musicisti, i suoi musicisti che la conoscono bene, che amano la sua musica, allora riesce a dare il meglio. Okay. È anche un po' spirituale come musica, tira fuori l'anima all'inizio quando canta, perché lei nella sua musica mette molta delle sue radici afro-brasiliane che hanno a che fare molto con la religione. È un discorso un po' complicato questo, perché lei certi brani li canta in Yoruba, che è una lingua antica che veniva dall'Africa, da coloro che deportati con la forza, quindi schiavi, in Brasile. Okay. Erano obbligati a convertirsi alla religione cristiana, in quel caso cattolica, ma naturalmente non dimenticavano le loro radici, quindi come si può dire, era un vero e proprio sincretismo, un modo anche per un vero e proprio sincretismo per potervi tenere vive le proprie tradizioni. Esatto. Le si univa a quelle cattoliche per cercare di camuffarle e di non dimenticarle, quindi in chiesa ancora oggi vengono fatti questi canti in una lingua che loro poi non conoscono, perché stiamo parlando di generazioni e generazioni, secoli fa. Quindi sicuramente c'è molto, molto, molto, molta spiritualità. Molta anima dentro questo disco. Parecchio, parecchio. Non c'è samba, non c'è bossa. Perché lei poi viene da Salvador e Bahia, che è una città un po' particolare dove la maggior parte dei cittadini sono di origine afro. Ok. Ok, nera, non è bianca. Ok. Per determinati motivi. Quindi è molto viva lì la musica, il suono. È molto più importante la musica in Brasile, per esempio, nel nostro paese. Sì, è fondamentale. Come anche in Africa sono molto più legati alla musica di noi, ce l'hanno. Cioè, è un po' uno stereotipo, però ce l'hanno più nel sangue rispetto a noi. È uno stereotipo, diciamo. Questo, Maurizio. Sì? No, non lo dire. Ok. Va bene. Dopo questa gaffe, mettiamo su un brano della Nessa Costa, vai. No, prima del brano della Nessa Costa, avete qualche altro progetto in cantiere? Qualche c'è cosa? In cantiere il nuovo album di Elso, che stiamo registrando in fase di produzione. Lui si è preparato già, ha già fatto tutta la pre-produzione, perché come si deve, è un grande musicista e artista, lo sta dimostrando, perché lui porta tutta la pre-produzione, poi studio di registrazione, vengono coinvolti vari musicisti. E la cosa penso che andrà avanti ancora fino a dicembre. Ok, ecco. Quindi un disco. Io prevedo che per l'anno prossimo, successivo, uscirà questo nuovo album. Ok. D'accordo? Quindi restate sintonizzati sulle frequenze di Radio Città Fujiko e di Fono Fabrique, che per l'anno prossimo porterà un'altra novità. E ora ci andiamo a sentire, come abbiamo detto, un brano della Nessa Costa. Faccio salutare un attimo Elso. Sì, okay? Sì, esatto, prego. Tanto ci siamo. Siamo volevo qua. Ricordarvi per il 18. Sì. Di giugno, martedì 18 alle 22 ci sarà l'evento al Bravo Caffè, praticamente. Esatto, noi ci saremo, quindi vi aspettiamo tutti lì, dove potrete trovare il suo disco e tutta la band quasi al completo, perché la questione di spazio influisce. Come detto, ci andiamo a sentire un brano di Nessa Costa, da questo disco Roots, che qua mi dicono è uscito nel 2016, quindi ha qualche anno, ma è ancora molto... È ancora molto valido, perché questa musica non invecchia. Ci andiamo a sentire la quinta traccia, che si dice, spero di dirla corretta anche se è in portoghese, Che Será de Eu. Quindi ora attiviamo il CD e ci andiamo a sentire Che Será de Eu.